Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. L'asilo sarà al centro del nuovo villaggio. È un po' la rinascita nel dolore, un po' il simbolo di Onna. È un asilo molto speciale quello di cui stiamo parlando, l'asilo di Giulia. A disegnarlo infatti è stata una ragazza, una studentessa di ingegneria di 23 anni, morta il 6 aprile all'Aquila sotto le macerie della casa dello studente venuto giù per il terremoto. Aprirà i battenti martedì e noi vogliamo riprendere la nuova stagione di Obbligo di Frequenza con questo racconto, il racconto di un sogno che si realizza. Ce lo fa Manuela Manenti, anche lei un ingegnere, per la protezione civile, ha seguito l'intero progetto. È un asilo che non è nei canoni tradizionali dell'asilo rettangolare ad un piano solo. E Giulia ha scelto una forma, diciamo, quasi a libro, perché si apre a una forma, una copertura ad arco che praticamente si apre verso un patio che è sostenuto da colonne leggere. È un'apertura proprio verso l'esterno, ad accogliere i bambini che vanno nell'asilo. Legno in tonaco chiaro, alluminio grigio, le colorazioni sono di tonalità calde, non abbiamo colori diciamo né vivi né troppo intensi. Lei ha citato Giulia parlando di questo asilo. Ci racconta un po' chi è Giulia? Giulia è una ragazza che è morta sotto le macerie della casa dello studente. Era una ragazza che probabilmente piena di gioia di vivere, perché da lì si vede come è fatto il progetto dal quale noi abbiamo tratto il disegno. C'era prevista nel progetto anche una passerella variamente colorata, molto molto intelligente anche come soluzione. Giulia purtroppo, essendo morta, la madre è andata a guardare le cose della figlia, come avremmo fatto tutti i genitori, e ha trovato i disegni di Giulia e ha avuto la forza d'animo di portarceli, ce li ha portati in Dicomac, un CD, dicendo se potevamo poi realizzare qualcosa di questo disegno della figlia. Questa cosa ci ha colpito molto, sia al dottor Bertolaso, sia a tutti noi, a me in particolare, perché essendo io ingegnere ho trovato in Giulia una futura collega, un'idea di una ingegneria al femminile che spesso non ci viene riconosciuta. Come mai Giulia aveva deciso di disegnare un asilo? Io penso che fosse il tema dell'esame di composizione. Quando lei, che ha seguito tutto il progetto, ha visto questo asilo finalmente costruito, finalmente venuto su lì al centro del nuovo paese di Onna, che cosa ha pensato? Ho incontrato veramente, io l'ho visto crescere man mano, no? Perché naturalmente noi abbiamo seguito i lavori e periodicamente siamo andati a vederli quasi giornalmente, per cui io l'ho visto crescere di giorno in giorno. In realtà io e la mamma di Giulia, che siamo diventate quasi amiche, perché è difficile non essere amica di persone così dignitose, quando ce lo siamo visto, ci siamo abbracciati sinceramente. Lei ha ringraziato la Protezione Civile per aver visto realizzato un sogno. Lei naturalmente non avrebbe mai creduto che portando quel CD, quel progetto della figlia, poi dopo avrebbe visto invece la realizzazione. È un sogno realizzato. Primo giorno di scuola dunque per i bambini della materna di Onna, primo giorno di scuola la prossima settimana anche per tutti gli altri studenti. Non torneranno invece sui banchi, anzi in cattedra, i circa 12.000 precari rimasti fuori dal piano di tagli del governo. Le proteste in varie città ve le abbiamo raccontate questa settimana nel corso dei GR24, continueremo anche a farlo. Poi però è diventata realtà l'indennità di disoccupazione, sembra, almeno perché è stata inserita nel decreto Ronchi, che parla d'altro e potrebbe essere bocciata. Comunque in settimana è arrivata l'approvazione in Consiglio dei Ministri, devono poi seguire gli accordi su base regionale, perché un po' di soldi ce li mette lo Stato, un po' le regioni. Prima regione a stanziare poi concretamente i soldi è stata la Lombardia. Ci spiega meglio il tutto l'assessore regionale lombardo all'istruzione Gianni Rossoni, al microfono di Federico Maselli, a cominciare da chi potrà ricevere l'indennità. Si rivolge a un target preciso, che sono i supplenti annuali nominati dai provveditori perdenti posto, perciò solo i supplenti annuali che nominati l'anno scorso, quest'anno non hanno, per razionalizzazione di posti, hanno perso il posto. Queste persone, questi insegnanti, hanno diritto a una indennità di disoccupazione pari al 60% del reddito. Allora noi abbiamo detto, perché queste persone devono stare a casa per percepire l'indennità di disoccupazione? Chiediamo a loro, mantenendo l'indennità, di venire a lavorare, noi rimpinguiamo del 40% il reddito, quindi loro prendono il 100% e nello stesso tempo vengono messi in disponibilità delle scuole per fare un sostegno, orientamento o integrazione. Nello specifico però, come verrebbero reinseriti dalla regione questi, allora, queste persone? Allora, queste persone noi non le inseriamo, le mettiamo, le affidiamo, perché si conosceranno attraverso l'INPS i nomi e numeri, quindi quanti saranno i nominativi, verranno affidati all'ufficio scolastico regionale attraverso un patto territoriale che dovremo formulare, di modo che poi l'ufficio scolastico provinciale le dia in disponibilità dei provveditori provinciali, di modo che vengono date queste persone alle scuole. Perché facciamo questo giro dall'ufficio scolastico regionale a quello provinciale? Perché solo il livello più prossimo al bisogno conosce il bisogno. Allora noi diciamo, provincia di Milano, tu hai in disponibilità 100 persone con queste caratteristiche, tu sai benissimo quali sono le criticità che hai sul territorio, c'è le scuole che hanno criticità, tu a queste scuole assegni queste persone per fare orientamento o fare sostegno ai disabili o per fare integrazione con gli altri comunitari. Quindi verrebbero reinserite nella scuola? Nella scuola, certamente sì, nella scuola, rispettando anche, se nel limite del possibile, la classe di concorso, cioè un insegnante delle elementari che venga assegnato a una scuola elementare. Ecco, questi 15 milioni che voi stanzierete, da dove verranno presi? Vengono presi da risorse regionali. Quanto durerà questo accordo? 2 anni, quest'anno, 2009-2010 e 2010-2011. Però l'accordo prevede 2 anni, il decreto prevede 1 anno solo. Vedremo poi l'anno prossimo, magari lo reitereranno. Eppure i precari non sembrano contenti, come mai secondo lei? Per carità, loro hanno una posizione diversa dalla mia, legittima, la rispetto, però hanno avuto una sorpresa, ahimè, non uguale alla protesta, perché la sorpresa è molto, molto, molto migliore di quello che si pensava, perché se il target è supplente annuale che ha diritto all'indennità di disoccupazione, chiediamo a questa persona di non stare a casa a percepire l'indennità di disoccupazione, ma diciamo, metti in disponibilità a fare questo lavoro e prendi il 100% con il punteggio che ti vale ai fini della carriera, io dico, a questo punto cosa c'è da protestare? C'è una posizione, allora, politica, che riguarda la qualità della scuola, però sul tema della qualità della scuola possiamo discutere per anni. E allora sentiamoli questi precari insoddisfatti. Ennio De Marzo, da ben 11 anni insegnante, un po' qua e un po' là, alle superiori di storia e filosofia. Sicuramente i precari considerano non del tutto negativamente che qualcuno si occupi di loro, per carità. Però questo è un provvedimento assolutamente insufficiente, che riguarda solo una minoranza di precari, oltretutto valido a quanto pare per solo quest'anno. Alleverà la disperazione di alcuni di loro, ma indubbiamente non risolve il problema del precariato, non intacca minimamente il piano dei tagli di Tremonti e della Gelmini, non aiuta la scuola pubblica a sopravvivere, insomma l'aspetto, diciamo, che è negativo. Ecco, quale sarebbe la soluzione da voi auspicata? Ma prima di tutto la soluzione la minima soluzione sarebbe ritirare i tagli previsti per i prossimi anni, l'assunzione in ruolo di tutti i precari che da anni, alcuni da decenni, lavorano nella scuola. I soldi ci sono, bisogna investirli. Si parla di crisi, su questo sicuramente tutti siamo d'accordo, però quando si lasciano 300 miliardi di evasione fiscale e poi si vanno a toccare scuola e sanità, beh, allora è una questione politica, non siamo all'ultima spiaggia, i soldi si possono trovare e non si devono tagliare nei servizi pubblici e soprattutto nella scuola pubblica, che forma le generazioni future. Abbiamo iniziato con una storia, la storia dell'asilo di Giulia che sorgerà martedì al centro del nuovo villaggio di Onna in Abruzzo. Concludiamo questa prima puntata di Obbligo di Frequenza della nuova stagione con un'altra storia che questa volta ci porta dall'altra parte dell'oceano. È la storia di uno studente che di fortuna ne ha fatta davvero parecchia, anche se i presupposti per averne non c'erano affatto quando era studente. Parliamo infatti del presidente americano Barack Obama. When I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. Quando ero ragazzo, con la mia famiglia ho vissuto qualche anno in Indonesia e mia madre non aveva i soldi per mandarmi nelle scuole dove andavano tutti i ragazzi americani. Così lei decise di darmi delle lezioni extra, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 del mattino, poiché lavorava. Non ero tanto felice di svegliarmi così presto. Un sacco di volte mi sono addormentato sul tavolo della cucina, ma ogni volta che mi lamentavo, mia madre mi lanciava una delle sue occhiate e diceva: neanche per me è come andare a un picnic, ragazzo. Ragazzi, non è un picnic, diceva dunque la madre di Obama. Insomma, con il suo metodo educativo qualche risultato l'ha davvero ottenuto. Ci risentiamo sabato prossimo. Buon inizio di scuola a tutti. Approfitto solo per ricordarvi che lunedì dedicheremo ampio spazio alla ripresa delle lezioni e dedicheremo all'argomento un nostro Radio Day con collegamenti nel corso della giornata con le scuole in varie città d'Italia.